intenzioni di Kevin Desmond lasciò. Ah sì? Beh, secondo il dizionario delle invenzioni di Kevin Desmond, la cera lacca fu inventata non si sa da chi nel 1556. E quando il sonno agli occhi miei si attacca, un dolce santo oblio Morfeo mi presta, che mi tura le luci a cera lacca, dice il poeta, che nella fattispecie, anche qui parliamo di satire, è Salvator Rosa. La si ottenne mescolando dei prodotti resinosi con composti inorganici. La si riduceva in forma di bastoncino che al calore si scioglieva e poi al freddo si riassodava. La più comune è quella, sicuramente è stata quella rossa, ottenuta grazie all'aggiunta di ossido di ferro e cinabro. La cera lacca rispose ad una funzione cui mai l'umanità cosiddetta civilizzata ha saputo rinunciare, no? La segretezza, la garanzia dell'occultare, della conservazione, il sigillare l'autentico alla faccia del contraffatto, funzione che oggi viene svolta da altri espedienti. Parrà strano dunque che ancora in questi ultimi giorni io mi sia imbattuto ben due volte nella cera lacca. La prima volta è stato quando mi sono trovato a San Sepolcro. In cerca di Piero della Francesca visito il museo civico di questa cittadina toscana e prima di uscirne non mi nego una discesa nei suoi sotterranei, dove è conservato un vicolo medievale più o meno in buono stato, una sezione archeologica e la sala delle pietre con il tesoro della cattedrale. Osservo le teche dove sono conservati i preziosi abiti vescovili e ostensori nel cui retro cavo allignano scrupolosamente catalogati santi rifiuti, come la rotula di San Modesto o un metacarpo di San Domiziano, e passando di avanzo in avanzo improvvisamente vengo attratto da uno scrigno dorato con angioletti e fiorellini, con finestra in vetro, coperchio chiuso, da alcuni sigilli in cera lacca. Lo scrigno, ma guarda chi si rivede, contiene una manica della veste di San Carlo Borromeo, che mi fa piacere ritrovare sulla mia strada dopo che proprio da questi microfoni ne avevo recentemente ricordato l'anniversario insieme alle nefandezze che ne hanno macchiato l'immacolata carriera di santo per necessità e per ragion di Stato. Guardo, osservo, scruto, conto i sigilli e ovviamente sono 7. Per capire perché i sigilli sono 7 occorre andare a leggersi l'Apocalisse. Già tirava una brutta aria quel giorno quando apparve Dio seduto sul trono con un libro in mano suggellato con 7 suggelli, e le cose non potevano che peggiorare allorché comparve anche un agnello abile di zampe quanto dannatamente curioso. Uno dopo l'altro l'agnello rompe i primi 6 sigilli e provoca disgrazie sufficienti a radere al suolo ogni risultato della fatica umana. Poi fa la pausa, come se fosse in televisione e dovesse rispondere alla domanda finale di un quiz. E quando tutti ormai pensano che ne abbia basta, l'agnello rompe anche il 7° sigillo e apriti cielo. Giù tuoni e folgori, terremoti, pioggia di fuoco e di sangue, cadono le stelle del firmamento e con la colonna sonora degli angeli trombettieri non ce n'è più per nessuno. Da lì, oltre la passione di alcuni popoli per l'abbacchio al forno, il carattere vagamente iettatorio del 7° sigillo. Da lì quel film di Bergman con Max von Sydow, il 7° sigillo che del 56, dove Max von Sydow fa la parte del cavaliere medievale che gioca a scacchi con la morte. E da lì anche il soprannome che da ragazzino avevo dato ad un vicino di casa. Pallido, emaciato e tristissimo, magro come uno stilita e silenzioso come un monaco di clausura, pensieroso come se ne avesse già rotti sei e rassegnato come se vedesse il film di Bergman tutte le sere prima di coricarsi. E un giorno lo chiamai il settimo sigillo e il fatto che da lì a poco dopo morì mi confermò quanto l'avessi azzeccata. La seconda volta in cui mi sono imbattuto nella ceralacca è stata allorché sulla parete accanto al letto di una ragazza ho trovato appuntato un foglio manoscritto fitto di poetiche espressioni a lei dedicate dal ragazzo che l'ama. Sotto, in fondo a destra, a mo' di firma, un'impronta di ceralacca conservava l'iniziale di un nome. I protagonisti di questa storia sono due ragazzi giovani, adolescenti, aperti al mondo, fiduciosi, tanto convinti della bellezza dei loro sentimenti da compitarli pubblicamente ad alta voce. La ceralacca non difende dalle intrusioni, non serve a chiudere alcunché, né in definitiva a conservare. Ma nonostante la sua antichità, e anzi proprio in merito alla sua antichità, la sua desuetudine, conserva il fascino delicato di una funzione simbolica. È frutto di scelta ponderata, è soluzione cercata, è pensiero orientato in luogo di automatismo. In un mondo in cui ormai la firma è computerizzata, in cui il segreto come il privato più semplice sono affidati ai codici di accesso. È vero che un bastoncino di ceralacca è stato a lungo anche in un mio cassetto di adolescente, ed è vero che un grumo di ceralacca non è mai mancato sulle miriade di finte pergamene che qualcuno ha continuato ad elargire. È vero, in altre parole, che anche la ceralacca è inserita di diritto in un buon campionario del kitsch. Ma ogni volta che un ragazzo la riscopre, ogni volta che se la ritrova tra le mani così com'è, senza una storia, può costituire il sigillo di un momento felice. È l'unico sigillo, mi raccomando, non sette.